5G. Ascolta e replica. Vogliamo entrare? Entriamo, dai. Vogliamo tornare a casa? Torniamo, dai. Dobbiamo leggere? Leggiamo, dai. Dobbiamo correre? Corriamo, dai!